Ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Alessandro Benvenuti legge Metello di Vasco Pratolini. Metello arrivò a 20 anni che era non un altro uomo, ma un uomo diverso da quello che sarebbe diventato se fosse rimasto a Rincine, bracciante di fattoria. La città dove era nato lo riconobbe e lo confortò, gli aperse la mente e gli irrobustì il cuore. Gli dette un pane che, per quanto sudato, spesso lo inorgoglì, e piuttosto che spegnere, alimentò nel suo spirito, vagliandole, quelle doti di caparbietà, di equilibrio, di furberia anche, radicatisi in lui durante la sua fanciullezza contadina. Scomparso Betto, viveva solo, e a cominciare dal filone di pane, gli occorrevano 6 centesimi ogni mattina. Egli si trovava al principio di quella scala che parte dal manovale e conduce al mezzo muratore, al muratore, al primo muratore. Una lunga ascesa che non ha vette, ma ripiani. In cima, con le braccia conserte, sta il caporale. Il lavoro era la sua risorsa e gli piaceva. E come gli piaceva il lavoro, gli piacevano le sottane. Dopo la sua prima esperienza con Michela, aspirava a dei sentimenti un poco più puliti. Non ancora supponeva di doversi innamorare, ma di fidanzarsi, di correre, come aveva imparato a dire, la cavallina. Sui ponti si respira a pieni polmoni, come in campagna. Malgrado la fatica, via via che si sale, la città diventa in basso sempre più piccina. Si abbraccia con uno sguardo, e tra la gente che si vede andare e venire ci sono le ragazze, che fanno le sarte, le sigaraie o le ricamatrici, che ti ascoltano. Non gli importa se devi ancora fare il soldato, sono disposte ad aspettare quando sanno che hai un mestiere nelle mani. Questo era un motivo in più per agognare il giorno in cui avrebbe lasciato il cofano di manovale e impugnato la cazzuola e il filo di piombo del muratore. Del resto, cosa gli aveva detto il Chellini? Più bravo diventerai nel mestiere, più ti verrà chiaro di essere uno sfruttato. Chellini non l'aveva più incontrato. Gli avevano dato 4 anni per lesioni colpose, e tutti quei muratori lo conoscevano e lo portavano in palma di mano. A maggior ragione, quindi, ora che ricordava le sue parole, Metello le trovava facili da capire. Gli bastava intenderle come una norma di vita, e riferendola all'ambiente del suo lavoro, si proponeva di trovarsi d'accordo coi suoi compagni nel resistere se il caporale avesse preteso di imporre un sopruso. Tuttavia, mai essere il primo a farsi avanti, né mai l'ultimo a tirarsi indietro. Mai doversi pentire di aver offerto i polsi alle manette. Certo, egli non avrebbe perpetuato le idee di suo padre e di Betto, così come non desiderava rifare la loro fine. Il tempo gli avrebbe poi dimostrato se tutto questo era possibile o se era comunque un'illusione. Già egli si accorgeva che gli anarchici diventavano sempre meno, dispersi o in galera che fossero, adesso era sopra i socialisti che si posavano gli occhi della polizia, e più la sua mano. Erano un'altra pasta d'uomini, costoro forse più ignoranti, meno generosi se non a parole, avevano tutti una famiglia da mantenere, ma con le idee più chiare. Non di meno, se nasceva una discussione bastava un anarchico, sia pur l'ultimo analfabeta, ma non erano quasi mai analfabeti, anche se facevano un mestiere, per tener testa a un gruppo di socialisti. «È vero o no?» gli dicevano, «che più si combatte insieme e più si avvicina il giorno in cui ci sarà un mondo senza classi, senza più sfruttati e senza più sfruttatori?» «Poniamo di sì», rispondeva l'anarchico. «Come poniamo? Il numero fa la forza o non fa la forza?» «Il numero fa gregge. Collettive sono le pecore, che hanno sempre bisogno di 3 cose, del pastore, del cane e del bastone. L'individuo è libero, è arbitro di tutte le sue azioni. Parli come un capitalista e voi altri come dei preti», e venivano alle mani. «E nel migliore dei casi, con te non si può discutere, voi anarchici siete dei poeti». Erano dei poeti, non gente come noi, che il cervello si avrà piccino, ma lo sappiamo adoperare. Sul lavoro, ad averli per amici, si sarebbero fatti in 4 per insegnarti il modo di calibrare un mattone e, come Betto, tolti la camicia per aiutarti in caso di bisogno. Presi a uno erano d'un altro mondo, dei poeti. Metello si ripeteva, scacciavano una mosca anche quando sarebbe stato facile schiacciarla e nello stesso tempo non ci avrebbero pensato due volte, dandosi l'occasione di mettere una bomba e fare una carneficina. Predicavano il furto ed erano le persone più oneste che gli fosse mai capitato di incontrare. Sempre meno gli capitava di incontrarne. E poi gli anarchici non avevano dei capi, forse perché non si riconoscevano nei capi, ed anche questo li dipingeva. Ma se c'è un uomo istruito, più intelligente di te, che vuole che il mondo vada per lo stesso verso in cui tu vuoi che vada, perché non seguirlo e starlo ad ascoltare? I socialisti volevano delle cose concrete e i capi non gli mancavano. Tanto per incominciare, come aveva detto il Chellini, volevano che il lavoro fosse pagato secondo il sudore, ossia che per prima cosa aumentassero i salari e diminuissero le ore di fatica. Si era aperta anche una Camera del Lavoro e il suo segretario e fondatore, Sebastiano Del Buono, era una persona disinteressata come un anarchico e con la testa sulle spalle. Viveva del suo stipendio di impiegato delle ferrovie e le ore che gli restavano libere e parte della notte le passava tra la sede allo Strozzino, una sola stanza dove, quando s'era in 10, bisognava stringersi per entrare, la periferia e la campagna, a tener comizi e a scrivere manifesti, a dar consigli e incoraggiare. Ti lasciava all'uscita del cantiere per andare a quella della manifattura. Dopo aver parlato con le sigaraie, passava a una riunione di lavoranti stipettai, magari di parrucchieri. Se eri disoccupato, finiva col cavarsi di tasca l'ultimo diecino e si dava il caso che per suo conto dovesse poi saltar la cena. Lo si chiamò in seguito l'angelo rosso o l'angelo senz'ali. Aveva una voce esile, che anche se saliva di tono non si arrocchiva mai. Usava espressioni talmente naturali che sembrava avesse fatto tutta la vita il muratore piuttosto che l'impiegato. Portava le lenti strette sul naso, i baffoni e la barba, le punte del solino rivoltate, il fiocco largo che gli toccava il bavero della giacca dai due lati. Da questo si capiva che lavorava con la testa e non con le mani, anche se il vestito era sempre lo stesso, trasandato. E dallo sguardo, sempre calmo, dolcissimo, ridente dietro quegli occhiali. Aveva un suo modo di dire che era questo: «Mi sembra bene, non ti pare?» oppure «Mi sembra male, non ti pare?» Un giorno, anni dopo, allorché poté conoscerlo più da vicino, discutevano di come andavano le cose durante lo sciopero dei muratori l'estate del 1902. Metello disse «Così e così?» Bastiano gli replicò secco, con un'energia che Metello non gli sospettava. «È una risposta da sacrestano. Ci siamo proposti il minimo, se lo strappiamo è una vittoria, altrimenti c'è da ricominciare da capo!» Sorrise, gli posò una mano sulla spalla. «Non ti pare?» gli disse, e malgrado la barba sembrò a Metello di vederla arrossire. E c'era Pescetti, lui davvero un oratore, eh? Tra poco lo si sarebbe portato alle elezioni. Era un avvocato anche lui, con la barba ma senza gli occhiali. Piccolo di statura, strascicava una gamba e non faceva mistero di non aver dubbi sull'esistenza del Signore. Ma appunto per questo, Marx e il Vangelo erano per lui una cosa sola. Ed egli era, per i socialisti fiorentini, Costa, Turati, Barbato e Cipriani messi insieme. Le sue parole erano tutto fuoco. E se Del Buono era un angelo, lui era un santo armato, San Giorgio socialista, e nemmeno a suo modo Savonarola. A un certo momento si interrompeva per raccontare una barzelletta, che invece di spegnerlo, cotesto fuoco, era come se ci buttasse sopra dell'olio. Si tornava in cantiere con il cuore sollevato. Lo si chiamava Peppino, quando se ne parlava sul lavoro, o il signor Giuseppe, ma sempre Pescetti se gli si rivolgeva la parola. Lui ti pigliava sotto il braccio e insieme si andava a bere una mescita, due, tre. Voi giovani, voi sì che lo vedrete il sol dell'avvenire, ma ce ne saranno di guerre da combattere prima di allora, diceva. Parlava come uno di noi, diceva guerre, per dire prove da superare, lotte coi padroni e col governo, contro il re e contro il papa, che, seppure si erano voltati di spalle rispetto al popolo, continuavano ad essere quello che erano sempre stati, zuppa e pan bagnato, diceva, fino alla distruzione della società borghese del capitale, il che, nel corso degli anni, avrebbe significato e fame, e carcere, e fucilate. Tutte cose per Metello di là da venire. Gli bastava essere allora e dimostrarsi solidale, andare ai comizi, leggere la lotta di classe, iscriversi alla Camera del Lavoro, ma non al partito. Del resto, difficilmente l'avrebbero accettato, era troppo giovane e immaturo, né lui vi ambiva. Prima di potersi mettere alla pari con uomini, non diciamo come Pescetti o come Del Buono, ma come Chellini o qualcun altro dei suoi compagni di lavoro, Metello sapeva di dover diventare un bravo muratore. Non era un alibi, ma un ragionamento che quadrava con la sua situazione. Quale interesse avrebbe avuto a buttarsi nella mischia? Egli era solo al mondo. E se un giorno gli fosse mancato il lavoro, giusto quei due soldi di Del Buono avrebbe mangiato l'indomani. E aveva 20 anni. Lavorare gli piaceva, ma anche andare con le ragazze. Pescetti stesso, che si voleva fosse casto addirittura, forse per questo non c'era Sigaraia che non lo adorasse e come socialista e come uomo, cosa aveva detto durante il suo comizio in Piazza dell'Unità? Aveva detto, per inciso parlando della povertà a cui si è costretti e dell'impossibilità anche per chi ha del lavoro di formarsi una famiglia e una volta formata di non farle mancare l'essenziale, aveva detto, è forse un lusso anche l'amore? Metello non abitava più in San Niccolò, ma in una camera mobiliata nei fondacci del Madonnone, il quartiere dei Lavandai, al confine con la borgata di Rovezzano, dove andava la sera a cambiarsi e tornava poi a dormire. Aveva lasciato San Niccolò perché coloro che gli tenevano gli occhi addosso capissero che non aveva messo radici nell'ambiente che era stato di Betto e di Caco. Ormai anche per lui non c'era altro da pensare. Betto se l'era preso l'arma, come suo padre, e una ferita fa presto a risarcire. Quando si ha 20 anni e la vita sembra ci insegua, resta la cicatrice che prima o poi darà le sue trafitture, non ora. Ne aveva stretto delle particolari amicizie in quei 2 anni, conoscenze di lavoro, di sindacato, di quartiere. Era un bel giovane, gli crescevano i baffi, le sue spalle si allargavano, sapeva portare il solino e la cravatta, aveva il vestito della domenica. E non era scontroso, stava allo scherzo, alla battuta. Quando rientrava i lavandai avevano bisogno di un aiuto per caricare le ceste dei panni o il vinaio per tirar su dal carro le damigiane, lo chiamavano. E siccome non aveva nascosto di essere stato contadino, spesso quegli ortolani di Rovezzano si servivano di lui, vanga e zappa le sapeva ancora usare, così arrotondava la giornata. Dagli ortolani a volte restava a cena, risparmiando il piatto caldo della sera che altrimenti consumava all'osteria. E insieme al vestito delle feste, ora aveva il cappello e una spilla d'alpacca sulla cravatta, con la capocchia che sembrava una perla vera. Nella casa di uno degli ortolani c'era una sposa dai 30 ai 40, rimasta vedova da 2 anni e senza figliuoli. Era andata maestra a Rovezzano e costì si era sposata lasciando la scuola per lavorare negli orti e in casa. Ora viveva coi suoceri, loro 3 soli, ed ella aveva 100 cervelli che la pensavano, da Rovezzano fino oltre il Madonnone. Avrebbe ereditato quei 2 ettari di terra, ed era ancora fresca, tutta una voglia, lo dicevano gli occhi. Rispetto a lei, Metello era un ragazzo, ma forte, allegro, che zappava come si fosse alzata allora, invece di essere stato 10 ore su e giù coi cofani di calcina. Viola lo chiamava per reggere il cesto mentre coglieva la verdura, e sembrava indugiassa apposta, così chinata per lasciarsi vedere il seno sotto il corsetto che ogni volta finiva per accorgersi di avere sbottonato. «Cosa guardi?» Viola gli diceva rialzandosi e tenendosi le mani alle reni. Allora il seno sembrava anche più nudo, tanto premeva la veste. Egli taceva, timoroso di perdere il lavoro con cui arrotondava la giornata. La guardava un attimo, poi si fingeva che il vecchio o la vecchia l'avessero chiamato. Sentiva che Viola rideva alle sue spalle, era uno squittio più che una risata. Ma una sera, che i vecchi erano davvero dentro casa, e c'era appena una falce di luna, l'orto tutto in ombra e l'arno che scorreva al di là della scarpata, Metello lasciò cadere la cesta e prese Viola tra le braccia. Lei, piuttosto che difendersi, gli si strinse addosso, offrendogli la bocca che lui cercava. «Stupido», gli disse, «ce n'è voluto». E ormai da un mese, a notte, e presto notte per gli ortolani che debbono trovarsi in mercato con le prime luci, Metello entrava dalla porta sui campi lasciata socchiusa. I due vecchi dormivano dall'altro lato della casa. Come Viola l'aveva istruito, egli accendeva uno zolfino e se lo portava a costa al viso perché il cane smettesse di abbaiare. L'animale lo riconosceva, gli si strusciava le gambe fin dalla prima sera, poi trottava nel buio uggiolando. Viola era di già nel letto, pulita e odorosa come una signora. Fu la sua grande avventura, l'amante che egli non si sarebbe mai sognato e che mai più avrebbe avuto nel corso della sua vita. Si spogliava tutto nudo, come era lei e perché lei lo voleva. «Dimmelo se hai una fidanzata», gli chiedeva. «Non sono gelosa». Egli la rassicurava ed ella restava incredula o fingeva. «Sicché non ti ruba nessuno», commentava. Presto, capendo di dover favorire una sua amorosa mania, egli si dispose a mentirle. Pensava a Cosetta, che poteva immaginarsi ormai donna, e gliene parlava. Ma aveva vergogna di sé e, consumato l'amore, si risentiva. «Basta, basta, quello che ti ho detto è tutta una bugia». Viola si stringeva al suo fianco e lo accarezzava. «Non ci posso credere di essere la prima donna che hai avuto». Le tremava la voce, egli la sentiva come rabbrividire e ne era indispettito. «Anche questa è tutta una bugia», protestava. Cadeva nel sonno di schianto ogni volta mentre ancora Viola lo carezzava, e il suo ultimo pensiero era sempre lo stesso, di dispetto e con un'ombra di timore, adesso, siccome capiva che lei rimaneva desta, quasi a vegliarlo. Mattino il vecchio era partito col suo barroccio quando la suocera bussava alla porta prima di uscire per la messa. «Viola, svegliati, io vado!» Metella apriva gli occhi e scopriva l'amante che gli sorrideva l'indice sulle labbra. «Va bene, mamma, buongiorno!» ella diceva. Egli si alzava e Viola gli preparava la colazione, il pane companatico da portare sul lavoro. Ella era già vestita e pettinata, col corsetto e il grembiule freschi, stirati, e ironica, ridente, come nulla mai fosse accaduto. Tornava ad essere la nuora del padrone che gli dava il lavoro necessario ad arrotondargli la giornata. E intanto lo provocava. Non si lasciava nemmeno baciare. Lo guidava fuori la porta, facendogli strada. Gli sfiorava appena la mano, dentro la quale una mattina lasciò scivolare la spilla. Un altro giorno un cavurrino, e poi uno scudo, e poi due. «Comprati un cappello, vedrai, ti starà bene la domenica». Fuori era l'alba, passavano i carri dei lavandai. Come portata dall'eco giungeva la voce dell'uomo del traghetto, là dove l'Arno piega verso la città, dirimpetto alla nave, e vista in prospettiva, sul fondo di via Aretina, la ciminiera delle cure col suo pennacchio era più alta del campanile di Santa Maria del Fiore. Egli respirava a pieni polmoni, il filone imbottito sotto l'ascella oltrepassava porta alla croce lasciandosi alle spalle il mercato. Una di codeste mattine gli ballavano nichelini e soldoni dentro la tasca, bevuti il grappino al caffè del canto alle rondini, comperò un mezzo toscano e l'accese. Credeva che le sarebbe girata la testa come quella volta in guardina. Invece fu un'aggiunta di calore al calore della colazione e della grappa. Arrivato sul lavoro, sfregò al muro la cicca e la ripose nel taschino del gilet. Era sabato. E quella stessa sera, nel far le paghe, il caporale gli disse che dalla prossima settimana avrebbe potuto considerarsi mezzo muratore. Questa era la volontà dell'impresario. L'ingegner Badolati, che dirigeva di persona i lavori, andava su e giù dai ponti e la sua mano d'opera la sapeva valutare. Subito Metello pagò da bere, come doveva, i compagni manovali e muratori della sua squadra. Egli era alto, agile, giovane, rispettoso. Uno dei più anziani tra costoro, Renzoni, che questo mestiere lo faceva da 30 anni, alzando il bicchiere alla sua salute, esclamò: «E bravo cipressino!» Fu un soprannome che gli rimase. La relazione con Viola si protrasse tutto marzo, il marzo del 1892. Ci fu sempre il caldano ai piedi del letto e un mazzo di giaggioli che Viola cambiava ogni giorno anche se non era appassito sul cassettone. Metello non fu mai preso d'amor per lei, nemmeno si accorse di godere una donna in qualche modo eccezionale, che avrebbe lasciato un segno nella sua vita, se non altro il gusto della pulizia, della proprietà d'abito e di modi che Viola gli instillò e ai quali egli si assuefece, volendo piacerle, e anche perché i loro rapporti, sulla cui durata egli non si era mai illuso, potessero continuare il più possibile. La sicurezza, infine, nel trattare con le donne dopo l'esperienza fatta con Viola. Quella baldanza che o si acquisisce a 20 anni o mai più. La nostra fortuna con le donne è subordinata al nostro successo di esordienti, che ci persuade di essere nati, almeno sotto questo punto di vista, fortunati, e di cui le donne subiscono il richiamo. È come se ne portassimo addosso, diciamo, l'odore. Capita a Don Giovanni, come capita ad Annunzio, o a un muratore. Viola, e non Michela, fu l'esordio di Metello, la sua iniziatrice. Tutto quello che essa gli offriva, non soltanto se stessa, ma quei pochi denari e il filone imbottito, il cappello, la spilla, i gemelli da polso, c'era su ogni verso raffigurato un cane. Metello vi rivendé a Napoli, quando vi fu a compiere il servizio militare. Non lo imbarazzava. Dal momento che Viola poteva disporne senza sacrificio, egli non si sentiva umiliato. Ed aveva troppo equilibrio, troppo senso dell'opportunità e una naturale riservatezza per lasciarsi provocare dai pettegolezzi che tutt'attorno Rovezzano si facevano su Viola. Quegli ortolani e lavandai, mentre caricavano i carri o sedevano all'osteria, si tiravano il berretto sulla testa col dito ed esclamavano: «Macinerebbe un reggimento la Violona!» Dicevano che suo marito, un pezzo di figliolo che non passava da quella porta, si era ridotto in cenere per tenerla buona. Perciò era morto, e per il patema d'animo della gelosia che lo rodeva. C'era, non di meno, in queste volgarità, come una specie di rispetto, di soggezione. Per il resto, dicevano, è una signora, istruita, lavoratrice. Durante i 5 anni di matrimonio, nessuno aveva saputo di che malignare alle sue spalle. Ma prima di sposarsi, e subito dopo essere rimasta vedova, e ora poi, A sentirli, Viola ne faceva di pelle di becco, ma la rispettavano, siccome non aveva mai dato scandalo. E quel che dona, concludevano, è roba sua. Battevano le mani sul tavolo in una gran risata. La verità era che anche senza scandalo le cose si risanno. Uno è messo alla porta, è giovane, beve un bicchiere di vino e gli si scioglie la lingua. Era diventato il segreto di Stenterello. Come in Africa gli schiavi, i braccianti a opera qualche ora della giornata, non li sceglieva il suocero, ma lei. Ruffiani e sordi loro malgrado, i due vecchi li rigirava come dei burattini. Travedono per i suoi occhi. Come se volero volare non gli avesse ammazzato il figliolo. Ora non esageriamo, eh. Lui avrebbe sempre potuto dire, bambina, tirati in là, voglio dormire. E se l'uzzolo non le passava, la prima volta che l'avesse vista svoltare con qualcuno, sotto al bastone. Qui affiorava la causa che muoveva quelle lingue e tutto si spiegava. La lasceranno erede d'ogni cosa, della terra e della casa. Non è molto, ma nemmeno è poco. Aggiungici quei due occhi e quel davanzale. E bicchieri scolati e sacchi lasciati cadere dalle risate. Lei è come se fosse già la padrona, sicura di ogni cosa, non le resta che andare in piazza a contrattare, ma preferisce stare un'ora di più a letto la mattina. E non c'è che dire, è sempre a giorno, le novità non le lascia freddare. Se uno si stacca da sé, le fa un piacere, altrimenti ci pensa lei, quando è stufa, lo butta giù dal letto e da quel po' di lavoro. Questo si diceva all'osteria, allorché si rimaneva in pochi e si era bevuto e ci si dimenticava di doverle del rispetto. In 2 anni, che si sappia, quanti ne avrà cambiati? Si richiamavano alla mente dei nomi, uno dopo l'altro, aiutandosi sulle dita, e scoprivano che era tutta gente che stava per fare o era appena tornata dal servizio militare, e ripetevano la volgarità del reggimento e della Violona. Ma parlavano per Metello, gli ammiccavano, e lui scuoteva la testa, sorrideva, stava allo scherzo, alla battuta. Né riferiva a Viola ai discorsi uditi all'osteria, siccome mai essa gli aveva dimostrato di interessarsene. Anche i loro convegni curava sempre meno di mantenerli segreti, o così a lui pareva. Egli dubitò che la suocera ne fosse a conoscenza. Una mattina, incontrandola che tornava dalla messa, si era tolti il berretto e la vecchia l'aveva guardata in un certo modo, ma come di rassegnazione più che di rimprovero. «Tua suocera mi deve aver visto uscire di casa l'altra mattina». «Loro vedono quello che voglio io», disse Viola. Allora la gente aveva ragione, ma egli non andava più oltre col pensiero. Viola era lì e lo invitava a riversarsi sul suo seno. Il suo profumo, l'animosità e la sapienza con cui gli si dava lo stordivano, e di sera in sera le sue domande, fatte apposta, sembrava per mettergli timore. «Se rimangi incinta, tu che fai?» «Di solito in questi casi ci si sposa. Toglitelo dalla mente fin da ora. E cosa volevi ti rispondessi?» Ella rideva, era uno squittio, e gli chiudeva la bocca con un bacio. «Alla tua Cosetta, bambini, gliene hai dati?» «Cosetta era una bambina, non mi frastornare!» Poi cadeva schiantato nel sonno, mentre Viola lo carezzava. Alessandro Benvenuti ha letto Metello, di Vasco Pratolini. Regia di Francesca Zammarelli. A cura di Fabiana Carobolante con Lorenzo Pavolini. Ad alta voce @rai.it